Sai surra de Roma. Está é o podcast. De Roma. Ed eccoci, benvenuti alla nuova puntata di 8 Hertz. Questa sera si parla di brutti ceffi. Perché brutti ceffi? Perché il pezzo che state ascoltando è dei Pigface, che era un supergruppo musicale industrial rock, che è stato un vero e proprio collettivo musicale. All'interno di esso tante persone ci hanno suonato dell'area industrial rock o metal americana di fine anni, metà anni 80 e metà anni 90. Qualcuno di loro è diventato famoso, ha suonato per Major, altri sono rimasti sempre un po' sotto, ma comunque sono tutti musicisti che hanno aiutato le persone a suonare quello che oggi stanno suonando. Cioè, senza di loro ne sapremmo un po' meno, avremmo ascoltato tanto, ma veramente tanto meno. Dunque, Pig Face di Chicago sono stati fondati da due batteristi, esatto, proprio due batteristi, quindi insomma, onore a loro perché per una volta tanto non è stato formato come idea da chitarristi o cantanti o intelligentoni, insomma, perché i batteristi sono tutti scemi, io lo so. Comunque, i due batteristi in questione sono Martin Atkins e William Rieflin. Martin Atkins è inglese, ha suonato tanto con i Pigface, con gli Swans e con tanti altri gruppi. Però prima, questo pezzo che abbiamo messo, che si intitola Tapeworm, era tratto da Goob, che è il primo disco loro, proprio dei Pigface, del 1990. Segnatevi un po' questo anno, perché è stato molto molto importante. E in questo pezzo, che è il primo pezzo del disco, ci ha suonato anche Steve Albini, che insomma, oggi come oggi lo conoscono tutti perché è diventato un grossissimo produttore. Oltre a fare roba propria negli Shellac, insomma. Quindi boh, vi metto subito un pezzo dei Big Black, che era il suo primo gruppo che usava un drum machine, era roba anche lì un po' industrial, un po' noise, molto molto scorretto. Si chiama Precious Thing da Songs About Fucking dell'87. Questo è un po' il sound della serata, per cui insomma no, tutta roba un po' sporca, parecchio cattiva e marcia, che non è propriamente punk o hardcore, ma è qualcosa di diverso e personale per quell'epoca, ripeto, ha lasciato un po' le basi per tantissime cose che oggi ascoltiamo. Vabbè, dopo i Big Black, appunto, parliamo dei due componenti dei Pigface. Prima di uno, c'è cioè Martin Atkins, che è, appunto, come dicevo prima, inglese. Oltre ai Pigface ha collaborato, ha fatto i dischi forse più belli dei Public Image, come Metal Box o Flower or Romance. Ha collaborato con gli Swans, con Nine Inch Nails e tanti altri progetti un pochino meno famosi. Quello che ci andiamo a ascoltare è proprio un pezzo dei Public Image Limited che si chiama Banging the Door, tratto appunto da Flower of Romance. Appunto, già da qua si capisce un po' la portata anche a livello espressivo e di idee che può portare un batterista su alcuni tipi di musica anche inaspettatamente. Adesso ce lo sentiamo. You're in retirement, take all of my smart mind falls. Public Image Limited, d'altronde era il gruppo serio di Johnny Rotten, per cui faceva roba bella, ovviamente. Metto subito a ruota un altro pezzo di un disco dove ci suonava Martin Atkins la batteria e appunto gli Swans, che abbiamo già sentito in trasmissione qualche volta. Si chiama I'm the Sun del 1984, di l'album The Great Annihilator, che è uno degli ultimi che fecero prima che si sciogliessero. Beat marcatissimo. E siamo partiti dai Pigface per spiegare un po' che loro erano un gruppo contenitore di tanti personaggi che giravano a fine anni 90 nel mondo della musica un po' indipendente e che hanno segnato veramente tanto il mondo musicale per certi tipi di, se si può dire, generi o scene o qualsiasi cosa degli anni futuri. Ricordiamo che i Pigface, formati appunto da due batteristi, hanno collaborato appunto già in Goob, che è il primo disco, già con tanta gente, anche diventata famosissima come Trent Reznor, The Nine Inch Nails, Steve Albini, come abbiamo sentito prima, Yellow Biafra, The Dead Kennedys, Genesis, Peorage, PsyHit TV, Robin Gristo, Paul Raven, che ha suonato la chitarra per i Killing Joke e per i Ministri, e E Al Jourgensen stesso che suonava nei Pigface, insomma, il fondatore dei Ministry ha bisogno di poche presentazioni così come tutti gli altri. Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, insomma, era proprio una fucina, un allenamento creativo e forse anche di stile, anche se è un po' brutto da dire. Comunque, abbiamo sentito delle cose, dei progetti di Martin Atkins. Parlando invece dell'altro batterista, cofondatore dei Pigface, William Rieflin, lui si è fatto 10 anni di carriera nei Ministri, ha suonato la batteria fino agli anni 2000 e poi ha suonato anche nei REM, Revolting Cocks, che era un altro super gruppo, sempre americano. E quindi ragioniamo un po' su questo periodo dei Pigface, di William Rieflin e dei Ministri. Perché il disco dei Pigface, il primo era del 90, e praticamente è stato fatto e suonato praticamente dopo un famoso tour dei Ministri, The Mind is a Terrible Thing to Taste, che è uno dei dischi loro più famosi, insieme a The Land of Rape and Honey. E praticamente le dinamiche e chi suonava in quel tour apocalittico sono sempre le solite: due batterie contemporaneamente. Martin Atkins suonava la batteria a pad, Rieflin quella acustica, campionatori, chitarre, bassi, tutto in loop, più voci con più o meno la stessa timbrica, lo stesso effetto, berciate contemporaneamente tutte insieme, la gabbia, una rete su cui la gente si arrampicava. Insomma, quel tour lì ha un po' segnato appunto un immaginario di industrial metal o industrial punk o anche di funk stesso, di un certo tipo, di post-punk, sia musicalmente che anche esteticamente. Questo tour è raccolto sia in una VHS che in un CD, che si chiama In Case You Didn't Feel Like Showing Up, che appunto uscì nel 90. Nel live, tra l'altro, bellissima anche la regia, perché dal vivo proiettavano immagini anche a montaggio veloce, abbastanza catastrofiche, coadiuvate con appunto campioni di discorsi di gente, o di politici. Fuoco, c'era un po' di tutto, era quasi uno spettacolo proprio industriale da seguire, con una violenza abbastanza elevata sia di volume che di concetto. Beh, comunque, quindi se vi ha incuriosito, appunto, vorrei mettere un pezzo appunto dei Ministri tratto da quel live, che nella VHS è proprio il pezzo iniziale del tape. Ovviamente non c'è nel CD. Al CD mancano due pezzi, il primo e l'ultimo, che sono le VHS e sono bellissimi. Adesso quindi ci ascoltiamo Breathe dal vivo, che era anche l'apertura del concerto, di alcuni concerti di quel periodo 89-90 dei Ministri. E basta, ho detto anche troppo, vi sto assillando. Inizia subito con le due batterie da sole. Thank you. ed era un pezzo bomba live dei Ministri dell'89-90, si chiama Breathe, e in quel live a un certo punto usciva fuori un personaggio con la bandiera americana, la sventolava, ne parlava male, poi la bruciava e a volte per averla bruciata ci ha passato dei seri guai, e lui era Yellow Biafra, che no, era un grande amico di, o è, non lo so, poi, un grande amico di Al Jurgensen, che vorrei chiamare zio Al. I Ministri sono così belli che prima o poi vorrei fare una puntata esclusivamente su questa band, e ce ne sarebbe veramente tanto di materiale. E comunque allora ho scelto così per un gioco di rimandi di personaggi che giravano intorno a quest'orbita di brutti ceffi, di mettere un pezzo di Lard che appunto era un progetto di zio Al, Al Jurgensen e Yellow Biafra. Hanno fatto vari dischi, non tanti. Questo pezzo è tratto dal primo EP, che è un po' strano perché il lato B dura 30 e passa minuti, in vinile non so come ci entrava. Il primo disco si chiama Power of Lard e questo è The Power of Lard dell'89. We'll be right back. c'è molto tupa tupa in tutto ciò come ritmica, che poi era un po' la ritmica sintesi del lavoro dei Ministri fino a un certo punto della carriera, ma forse anche dopo. E, un altro side project dei Ministri erano i Payload, che fecero vari 7 pollici, 2 o 3 mi sembra. I Payload erano, oltre al buon vecchio Zio Al, anche con Ian McKay. Si spiega un po' assurda l'amicizia tra una persona straight edge, Ian McKay era cantante, chitarrista dei Manor Threat e Fugazi, e una persona estremamente viziosa come Zio Al, che insomma è stato ripreso più volte da overdosi varie. Insomma, adesso vi faccio ascoltare. Ovviamente la cosa in sé è la sonorità è sempre un po' quella della puntata, comunque sempre roba fatta da brutti ceffi. Loro sono i Payload e il pezzo si chiama Man Should Surrender. Sonorità di due teste diverse che sono al Jürgensen dei Ministri e Jan McKay dei Fugazzi. I Ministri in realtà erano fondati da due persone, l'altro è Paul Barker, che era il bassista, ma anche un po' quello che stava dietro alle produzioni, quello che un po' mandava anche sample, che ci faceva l'elettronica. Infatti, secondo me, i dischi più belli dei Ministri sono proprio quelli dove c'era la mano sua. Il periodo d'oro, come si può dire, era proprio quello dove ci suonavano entrambi. Anche lui ha fatto dei progetti solisti, sempre in quegli anni lì. Infatti vi vado a mettere un pezzo suo, il progetto si chiama Lead into Gold, era del 1990, il disco si chiama Age of Reason e si chiama Faster Than Light e praticamente ci si ritrovavano un po' i suoni dei Ministri senza i chitarroni pesanti di Zio Al, insomma ascoltatevelo che fate prima e, così magari entrate un po' meglio dentro tutto questo giro di persone che provavano a dire la loro. Thank you. E con Leading to Gold, Faster Than Light, facciamo un attimo un break. Vi ricordo un po' di social. Più che altro, a parte il sito che insomma, se ci state ascoltando è perché lo state usando, la mail che è forse la cosa più importante, che si chiama posta@wombat.net, wombat con la W come tutte le altre cose wombat. E qui ci potete scrivere per insulti vari o per elogi pazzeschi, anche per farci venire qualche idea, perché non abbiamo il cervello così infinito a livello musicale. Per cui, che cosa ne sapete di X? Ok, proviamo, si prova a fare qualcosa su questa imbeccata. E poi c'è il Twitter che è twitter.com/radiowombatfi, c'è un Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e basta. Ricordandovi del sito, se ci entrate o comunque divulgate questa cosa, c'è anche un Wombat Logo Contest, ovvero disegni il logo per la radio, per cui c'è una scadenza, insomma, poi c'è tutto il bando che è anche molto accurato all'interno del sito, per far sì che chi vuole fare la sua immaginina del logo, poi la useremo anche per magliette, spillette e quant'altro, e adesivi, che sono una delle cose più importanti del mondo. E quindi, insomma, provateci. Qualche cosa è già arrivata. Inoltre vi ricordo qualche appuntamento che c'è qua in agenda. Allora, all'Emerson di Firenze, venerdì 13 gennaio, fanno Reggae Dub, un DJ set con Joke Smoker, che è uno Spin Art Tribute. Contemporaneamente, lo stesso giorno, ovvero venerdì 13 gennaio, alla Polveriera c'è cortocircuito con a seguire un dibattito. Il 14 gennaio, che è un sabato, al cantiere a Campi Bisenzio c'è la banda del K100 più la banda popolare dell'Emilia Rossa, che è un autofinanziamento per le condanne antifa. E dopo questo break un po' almanaccoso, metto un altro supergruppo più o meno delle stesse persone, che si chiama Revolting Cocks, che già il nome è tutto un dire. È un progetto un po' più ironico degli altri, ad alta dose di sbruffonaggine texana, visto che qualcuno di loro viveva o è nato in Texas, per cui insomma credo sia una tragedia, non ci sono mai stato, ma è un po', credo che sia un po' brutale come idee, come personaggi, forse molto vicino a alcuni film che lo mostrano. E ci hanno militato appunto Jürgensen, Rieflin, Paul Barker, Chris Connelly, Ogre, Luke Van Acker e tanti altri nel corso degli anni. Anche loro hanno a volte delle basi un po' elettro, come abbiamo sentito prima. Il pezzo che vi metto ora si chiama Do You Think I'm Sexy? E c'ha un jingle, un ritornello abbastanza conosciuto. Il disco è da Linger Ficking Good and Other Banyard Oddities del 93, quindi è un pochino dopo, ma comunque è sempre il sound che ci piace in questa puntata di Brutti Ceffi. Her heart's gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? Got this girl home. Oh, relax, baby. Now we're all alone. I'm sorry, but I'm out of KY jelly. Never mind sugar, we can catch the early movie. Questi erano i Revolting Cox con Do You Think I'm Sexy, abbastanza sbruffoni e ironici. Un altro personaggio che orbitava nei Revolting Cox era Paul Raven, ha anche suonato nei Ministry dal live e purtroppo è deceduto qualche anno fa. Lo vogliamo ricordare così con due dei progetti nei quali lui suonava. Il primo è I Prong, che è questo pezzo che mette Another Worldly Device, e subito dopo a ruota, senza interruzione, metto un altro dei grupponi nei quali suonava, che sono niente po' di meno che i Killing Joke, che erano un gruppo post-punk, insomma, parecchio conosciuto, che già dagli anni 80 era attivo. Il pezzo si chiama Seeing Red, tratto dall'omonimo disco Killing Joke del 2003, quindi erano già in fase avanzata, nel quale suona la batteria del growl e fa delle cose bellissime in tutto il disco. Quindi ce la ascoltiamo entrambi, prima i Prong e poi i Killing Joke. Buonissimo ascolto. For reward. Killing Joke Sing Red, con la batteria di Dave Grohl. Tra l'altro, se l'ascoltate attentamente, magari in cuffia, troverete che al di là della la parte ritmica di batteria, sotto si nasconde un'altra linea di batteria tutta basata sui tom, quasi come costruisse un tappeto di basse accordate. E quindi, finita questa cosa su Paul Raven, tornerei a parlare da dove abbiamo iniziato dei Pigface, perché da qui si aprono altri ascolti sulle voci dei Pigface. Al di là di Al Jourgens, appunto ci troviamo Trent Reznor, Chris Cornell e Niamh Cogre degli Skinny Puppy. Adesso ci andiamo a ascoltare qualcosina di loro. Allora, sempre in Goob, che è il primo disco dei Pigface, c'è un pezzo cantato da Trent Reznor che si chiama Suck, che gli è piaciuto così tanto che poi l'ha inserito come bonus track nel, credo, secondo lavoro che fece, che si chiama Broken Anomena Inch Nails. Secondo me è geniale come pezzo e ve lo faccio ascoltare. Suck, suck, suck. finiva così un po' merda, diciamolo. Non so come mai, ma è finito così. Forse sarà la traccia che iniziava con l'altro. E comunque, metto un altro pezzo dei Pig Face che si chiama Point Blank, dove c'è il cantato di Chris Connolly, che è un cantatore fondamentalmente. Anche se ha bazzicato nel giro industrial americano, industrial rock, quindi non è proprio industrial purissimo, di un cantautore di matrice David Bowiana. A me piace tantissimo. Vi metto due pezzi. Il primo è proprio appunto con i Pig Face, e dopo un pezzo suo di un album solista suo che ne ha fatti tanti. Il pezzo si chiama What's Left But Solid Gold, titolo un po' alchemico. Tra l'altro, questo pezzo, la versione acustica, c'è anche in una compilation russa in omaggio alla morte di John Balance dei Coil, per cui tutto torna. E l'album è Sheepwork del 94. Quindi, prima il pezzo con i Pig Face, poi un pezzo solista suo, tutto Chris Connelly. Ciao. Ciao, non me ne vado. precious metal, my precious metal friend. To cast a spell for famine, you kept it in your hand. I'm loath to strike a bargain, to auction off my past. For purpose-built protection, we're going to look down and laugh. One stain on a bad name, clawing the wings of the fly. Sowing disease in a harvest, and just pretending to die. The strong invented solace to comfort us with rage and lead on calm. From deeply in my cage, what's left but solid starving? What's left but solid gold? The edge of night in hiding, the last of light control. As metal the frantic, spinning through people's need, silent and sanguine intention. Both hands to betray us, man became a thirst. How come as to Ice Age, precious metal curse? Precious, precious. So down they came in secret, stars on separate shores. The light was cast in mantras, immortalized with ore. If alchemy is sacred, metallurgy is waste. It leaves behind a scar on your precious metal. Abbiamo appena ascoltato un brano tratto da un disco solista di Chris Connelly, spero vi sia piaciuto, a me piace tanto come canta così, e anche il pezzo non era per niente male, anche se capisco che è difficile fare questo tipo di musica da sempre praticamente. Continuando a parlare di cantanti che hanno militato nei Big Face Ministry, Revolting Cox, insomma tutta questa famiglia, se si può dire. Ultimo, ma non ultimo, c'è Nive Cogre, che è il cantante degli Skinny Puppy, che erano un gruppo industrial canadese, lo sono ancora, si è formato addirittura nell'82. Sono stati insomma dei pionieri, come pioniere Radio Wombat, come 8 Hertz, come anche l'ascoltatore che appunto sta dietro ai nostri deliri, e va divulgata questa radio comunque. Sentitevi pionieri, magari vi prende meglio, che poi è vero in realtà, contro la noia fiorentina. Ascoltate Radio Wombat e fatela ascoltare, non ascoltatela da soli e basta, divulgatela, perché secondo me è non dico un privilegio, ma una fortuna che per ora ci sia, con tanti programmi, tra l'altro fighissimi e veramente particolari come poche radio in Italia fanno, per cui insomma sentitevi fieri di ascoltarla e divulgarla anche. Comunque, Nivek Ogre, cantante di Skinny Puppy, volevo farvi ascoltare due pezzi, ma ormai è tardi, quindi ve lo faccio ascoltare solo uno. Si chiama Warlock, è tratto da Rebis, che è un disco dell'89, sono sempre quegli anni lì, in cui questo disco, tra l'altro, è prodotto da Al Jourgens e dei Ministri, c'è anche suonato, per cui vedete che insomma tutto quadra, eh. Cioè, in quegli anni lì c'è stato proprio un boom di queste persone che veramente si sono spaccate il posteriore per fare di tutto di più e hanno fatto tante cose belle. Skinny Puppy, che sono comunque più un po' più elettro, un po' più elettronici, ma dipende anche dal periodo in cui hanno fatto i dischi, insomma, un gruppo che dall'80 è ancora vivo, non può fare sempre le stesse cose. Forse non è il pezzo che segna gli Skinny Puppy, questo che sto mettendo, ma a me piace molto. Non è Smothered Dope, che era tratta da Remission, che va molto anche nella danzetteria d'archettona e post d'archettona. Metto Warlock, ascoltatelo, fatevi anche un bel viaggione perché è abbastanza neuronale. Erano gli Skinny Puppy con Warlock, tratto da Rabies dell'89. Nivek Ogre, il cantante, ha fatto degli effetti alla voce, il suo marchio di fabbrica, così anche come un po' tutti questi queste voci di questi brutti ceffi. E 8 Hertz va sul finire, ora vi metterò l'ultimo pezzo, che è sempre The Pig Face, da praticamente dove siamo partiti, che era un po' il leitmotiv della puntata. Vi ricordo comunque che se volete approfondire anche visivamente su internet, trovate i live e le performance, perché proprio siamo vicino alla performance qua di tutte queste band, e soprattutto guardatevi In Case You Didn't Feel Like Showing Up dei Ministry, ma anche appunto le stesse VHS poi ripassate in digitale dei Pig Face, dei Revolting Cox, così anche di altri gruppi che ora non vi elenco. Vabbè, quindi metto Bushmaster Live dei Pig Face, e con questa vi saluto. È abbastanza delirante, le batterie incalzano, le voci vanno di fuori, e con questa chiudo. Ci sentiamo la settimana prossima, ormai è di giovedì alle 9, quindi prima, perché tanto dopo andate a dormire o ci avete meglio da fare. Un bacio a tutti. Buon anno, ancora forse non ve l'ho detto, buon 2017. This is the damaged flesh left over at a pig face show. This is the shattered human remains of a once proud individual. And how did it happen? I got kicked in the ribs. You're an asshole.